slick chick. See, a neat chick. The C's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a slick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. The high heels on for the baby blues. Very first time, man oh man, yeah. It was a night. Yeah, yeah. But everybody stopped, the only time to look. Yeah, yeah. Or even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. She's my clickety click, I'll stitch it. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick. But she what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you know she's a stick? Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. I stick yeah, a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Click click, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I got yeah, a crazy yeah, little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Yeah, yeah. Benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Slick Chick. E oggi, che è il 14, mercoledì 14 dicembre, quasi alla fine del 2016, meno male perché è stato veramente un anno faticoso e brutto, e quindi insomma, meno male siamo alla fine. E oggi vi avverto subito che, in particolare avverto i cardiopatici e i deboli di spirito, come dire, che questa sarà una puntata piuttosto hardcore, come diciamo così, perché stasera parliamo di apocalisse. E no, parlando di apocalisse non sperateci, non vi farò ascoltare i REM, perché non sono così banale e perché mi sono impegnata un tantino di più e spero di essere andata a raccattare delle cose un po' più rare e interessanti su questo argomento, che a me piace un sacco, affascina un sacco, e lo sentirete perché insomma si percepirà che ci sento, ecco. We'll be right back. sarà Mayday dei Tomahawk dall'album Meat Gas del 2003. E Mike Patton, ve lo devo confessare, potrebbe cantare un po' quello che gli pare e io effettivamente potrei stare a sentirlo per ore, come effettivamente avviene, cioè va esattamente così. E ve lo riproporrò, Mike Patton, nelle sue molteplici vocette, nelle sue molteplici forme, anche più in là, perché vi anticipo che vorrei fare una puntatona dedicata alle voci, le voci eroiche, quelli che secondo me sono gli eroi della vocalità, e quindi piano piano ve lo riproporrò. L'apocalisse, dicevamo, l'apocalisse nella musica non è così frequentemente usata come pensavo. Mi sono un po' stupita, pensavo di trovare un sacco di roba, invece non mica poi tanto. Sicuramente non lo è in senso letterale. L'estinzione del genere umano, che in realtà viene spesso invocato più che temuto, l'ansia per l'avvento di un mondo ancora peggiore di quello che viviamo adesso, oppure la presa di coscienza del no future, sottintendono tutte queste cose in realtà sempre qualcosa di molto più vasto e profondo. L'apocalisse viene spesso usata come una metafora più che il vero momento dell'ultimo giorno, eccetera, e com'è giusto che sia insomma. D'altronde, stasera cerchiamo quindi di indagare le varie forme di apocalisse, consapevoli che ce ne sarebbero altre mille effettivamente, proprio perché è un simbolo e una metafora. Spesso apocalisse spesso molto più frequenti e quotidiane. E quindi dopo i Tomahawk, per non calare troppo il tono che mi dispiacerebbe, proseguiamo subito con i Nine Inch Nails. Nine Inch Nails con The Day the World Went Away dall'album The Fragile del 1999. The Day the World Went Away, ovvero il giorno in cui il mondo se n'è andato. We'll be right back. Questi erano i Nine Inch Nails, appunto, con The Way the World Went Away. E chiaramente, parlando di apocalisse, di distopia, di mondo che sta per finire e cataclismi vari, non posso non farvi sentire London Calling dei Clash, che probabilmente è uno dei pezzi più famosi che parlano di questo argomento, ecco. Questo pezzo è del 1988, dell'album omonimo London Calling, assolutamente non è del 1988, ma la versione che vi faccio sentire è del 1988, perché è un live in cui Joe Strummer suona insieme ai Pogues. Quindi parecchi anni dopo, però un Joe Strummer ancora piuttosto interessante secondo me e non sfinito come purtroppo era dopo con i Mescaleros, che non so se vi è capitato di vederli, ma è stato un po' pitoso almeno per me, che ero abbastanza una fan. E London Calling, ve la ricorderete, forse non tutti si ricordano il testo, che più o meno dice: sta arrivando l'era glaciale, il sole sta precipitando, i motori si fermano e il frumento avvizzisce, un errore nucleare, ma io non ho paura, Londra sta annegando e io vivo vicino al fiume. Quindi ascoltatevi questa London Calling nella versione non quella che avete già sentito, ma questa molto più saltellante e con degli strumenti insoliti dei Pogues. È l'inconfondibile voce di Joe Strummer. Sono andata a riguardarmi la data di London Calling, perché come avrete notato non me la ricordavo assolutamente. Era del 1979, quindi più o meno 10 anni dopo, a 10 anni dopo risale questo live con i Pox. Però vabbè, tant'è. E passiamo ora a un pezzone, lasciamo un po' gli anglosassoni e arriviamo un po' in Italia. E questo pezzo non è che abbia bisogno di grandi presentazioni, secondo me. Siamo nella Torino anni 80 e, come direbbero in contrazione, un ghetto costruito per la loro sopravvivenza, non per la tua. Fabbriche, quindi, gli agnelli, le prime occupazioni, le autoproduzioni, la gioia del rischio e, insomma, la torinesità. Ecco, quella che secondo me è la torinesità. Farò una puntata apposita su questo, su quello che è Torino e che era un po' Torino, ma non oggi. Oggi però ve ne do un buon assaggio, perché quando si parla di apocalisse, no future, senso di precarietà, macerie, cose così, i torinesi secondo me ne sanno un bel po' e ci insegnano un sacco di cose. E quindi ovviamente vi faccio sentire i Franti con No Future. L'album è quello, La Luna Nera, del 1983, e beccatevi i Franti. We'll be right back. Questi erano i Franti con No Future e vi posso anticipare in gran segreto che verranno i nuovi Franti in formazione a tre, ahimè, a suonare a Firenze il 21 aprile al Next Emerson. Ve lo dico con grande anticipo perché secondo me è una data che vi dovete segnare sul calendario o sulla vostra agenda scarcerando a quella che avete, perché non potete assolutamente mancare. Ma non vi preoccupate che ve lo non mancherò di ricordarvelo in continuazione fino alla morte. E dai Franti passiamo per continuità abbastanza ovvia ai Contrazione, che sono un altro gruppo torinese di quell'epoca, di quel periodo, estremamente affine ai Franti, tant'è che questo pezzo che vi faccio sentire è tratto da uno split che fecero con i Franti nel 1984, data non casuale direi. Il pezzo si intitola Cieli rossi sull'Europa, è un pezzo secondo me veramente bellissimo, e siccome la registrazione è quello che è, perché sia i Franti, Contrazione, China e quant'altro ci hanno per fortuna insegnato l'arte del DIY e delle autoproduzioni, la registrazione purtroppo non è proprio meravigliosa, e quindi se non doveste sentire abbastanza bene il testo, sappiate che dice: svegliato nel cuore della notte, ho visto i vetri frantumati, il cielo tingersi di rosso, il cielo emettere fiumi di sangue, ed ho provato a urlare, ma dalla bocca non usciva suono, ed ho capito che un pezzo di metallo mi era cresciuto in gola. Mi risveglio nuovamente e riprovo a urlare, ma l'acqua rossa del fiume mi penetra in bocca, impedendomi ogni suono. Corro disperato per le strade deserte, fuochi risplendono nella nebbia, l'avanguardia della classe nera sta marciando sulle città europee. Torino degli anni Ottanta, benvenuti. We'll be right back. fino alla fine del mondo dei Treni all'Alba, dall'album 2011 AD. Il sottotitolo del disco è L'Apocalisse della Porta Accanto, quindi insomma perfetto direi. I Treni all'Alba erano un gruppo, purtroppo erano, perché ormai non suonano più, di torinesi e aostani, mezzi di Torino e mezzi di Aosta, provenienti a loro volta da vari gruppi, tra i quali i Bellicosi, ce n'erano altri, non mi ricordo più quali erano gli altri gruppi. Nei due album che hanno prodotto e nei live che hanno animato, tra l'altro anche a Firenze, per chi se li ricorda, c'erano dei suoni molto belli e un'apocalisse paradossalmente serena, secondo me. E il gruppo si è sciolto non per mancanze di idee, ma per una fuga di cervelli, come dicono i giornalisti, sparsi per l'Europa, tra l'Inghilterra e Parigi. E gli auguro ogni bene, li saluto se casomai ci sentissero, non è così improbabile, e comunque se voi non conoscete Treni all'Alba andateveli a risentire, perché ne vale la pena secondo me, e sono dei torinesi anomali al loro modo, ma neanche troppo. E proseguiamo con un pezzo basta italiani, ma non per molto, però per ora basta, perché arriviamo a Morrissey degli Smiths, poi solista, con Every Day is Like Sunday, che nel testo, all'interno del proprio testo, ha questo, secondo me, bellissimo verso, che è: questa è la città che si sono dimenticati di bombardare, che secondo me racchiude un po' tutto. E oltretutto prosegue poi dicendo come Armageddon, come, perché appunto spesso l'olocausto nucleare è qualcosa che a una certa si invoca quasi. E è una delle mie canzoni preferite di Morrissey, ve lo devo confessare, e la dedico, oltre a Nenia che sicuramente l'apprezza, ma la dedico all'alieno, se mai un giorno mi ascolterà. We'll be right back. E ora vi devo far sentire Laghetto. Vi tocca, perché i Laghetto hanno fatto un pezzo che si intitola Per un'estinzione umana ecosostenibile, che secondo me è un pezzonissimo. L'album in particolare si chiama Poca Apocalisse, anch'esso titolo piuttosto geniale, del 2005. I Laghetto erano un gruppo bolognese di qualche anno fa, se non li conoscete, purtroppo anche loro non suonano più. Hanno prodotto questo pezzo, il cui testo vi vado integralmente a denunciare, visto che la voce è volutamente registrata bassissima. E quindi non vorrei che vi perdeste le perle contenute in questo testo. Non è vero che sono cattivo come dici, appartengo soltanto alla... solamente alla razza umana, e mi sono mangiato un pezzo della coscia, e non era niente male, niente male. Ho dedotto che la mia fine è il mio principio, prova ne ha fatto che ovunque io utilizzi spessamente congiunzioni articolate e altri avverbi a caso, tipo stupendevolmente, come dice Carmen Consoli, attraverso i quali mostro scaltritudine, intelligenza, con cui illustrerò la nuova missione, la mia soluzione per un'estinzione della popolazione, mi mangio le unghie, mi mangio le mani, mi mangio gli occhi e la cassa toracica, non consumerò più niente che non sia me stesso. Per cacciare le ossessioni mi divoro gli organi, per cercare di sparire consumerò la presenza fisica, per distruggere il rimorso mi sono morso le mani e poi un polso ed ho affondato fino all'osso. Non consumerò più niente che non sia me stesso, e mentre pratico questo divertissement dell'auto-antropofagia e mentre autosuicidio il mio corpo col cannibalismo di me stesso, riconosco in me stesso l'inequivocabile soluzione finale alla seguente lista di problemi del mondo che vado a denunciare: l'autosufficienza, la sovrappopolazione, l'esaurimento nervoso della risorsa d'energia, la lotta al consumismo, la polluzione, l'uomo fa cagare e dobbiamo mandarlo via da questo mondo. L'estinzione umana è dunque l'unico traguardo. Non consumerò più niente che non mi appartenga, non distruggerò più niente che non sia me stesso, perché chi già si consuma ogni giorno, per chi si sfinisce ogni giorno in passo a se stesso. Consumarsi ogni giorno per sfinirsi e poi sfinirsi, digerirsi il proprio corpo e smaltirlo ecocompatibilmente. Perché mi sono insostenibile, perché non ce la faccio più, mi mordo le mani, mi mordo i gomiti, ingoio il mio collo e poi non ci sono più. Yeah. Klaus Sperber, per i più Klaus Nomi, nato nel 1944 e morto nel 1983, era un controtenore tedesco, tra i pochi che hanno osato giocare con questo tipo di vocalità senza attenersi a quello che possiamo definire uno standard classico. Negli anni 70 aveva messo su un gruppo di cantanti, artisti, musicisti, ballerine e quant'altro, che si esibivano al Club 57 insieme a lui. Tra questi, per dire, c'erano Basquiat, Keith Haring e diverse altre anime della scena artistica e queer newyorkese di quegli anni. Nel 79 Klaus Nomi viene ingaggiato da David Bowie per fare una coreografia e cori durante una sua apparizione, cioè un'apparizione di Bowie durante il Saturday Night Live. Bowie in quella apparizione indossava un rigido costume futurista, non so se ce l'avete presente, veramente molto rigido, tant'è che lo dovevano posizionare sul palco e riprendere a fine dell'esibizione. Klaus Nomi ne fu così impressionato che ne fece il suo stile, con il quale poi diventò famoso, perché effettivamente era uno stile futurista, appunto tedesco in gran parte. Klaus Nomi muore, ahimè, a 39 anni di AIDS, come tanti della sua generazione. Fa in tempo però, 2 anni prima, nel 1981, a comporre questo pezzo che esegue live nel film Jurg, A Music War, che non ho ancora visto, ma che secondo me vale parecchio la pena di vedere. Blown up, everything's gone. everyone was looking for a little entertainment. So they probably put his hands up when they find out his name, and then they shut down the power all along the line. And we got stuck in a tunnel with no light shining. Got that touching all the girls who were too scared to call out. Nobody was saying anything at all. We were waiting for the end of the world. About 20 minutes later, the legendary hitchhiker says that he knows where it's at. Now he'd like to go to Spain or somewhere like that, with a two-tone Bible and his funny cigarettes, his suntan lotion and his castanets. So wise, waiting for the end of the world. Yeah. Hiding from a scandal in the national press, they have been trying to get married since they stole a wedding dress. You may see them drowning as you stroll on the beach, but don't roll out the lifeline till they're clean out of reach. Waiting through the end of the world. Questo era Elvis Costello, ma prima di lui avete sentito Klaus Nomi, il cui pezzo era Total Eclipse, da cui si deduce il nesso con la puntata di oggi sull'Apocalisse. Ma quest'ultimo pezzo, appunto Elvis Costello, si intitola invece Waiting for the End of the World, dell'album My Aim is True del 1977, e Costello fa parte di quella ricca schiera di coloro che sperano che questa maledetta fine del mondo arrivi presto e così non se ne parla più. E con questo arriviamo a un altro pezzone di nuovo italiano, ma prima di questo pezzo vi volevo ricordare i social Wombat, ovvero i contatti a cui ci potete scrivere o mandare le vostre, i vostri improperi o i vostri complimenti. Il sito, prima tra tutti, wombat.noblogs.org, che le nuove generazioni non sottovalutano questa cosa, ma ci sono i commenti, potete commentare, ebbene sì. Poi il Twitter, twitter.com Radio Wombat Fi, la stupida pagina Facebook Radio-Wombat-Firenze, ma che aspettate a uscire da Facebook? La mail postawombat@insiberia.net, alla quale vi chiediamo di iscriverci perché ci sentiamo soli ed è tanto triste, insomma, aspettare la posta e nessuno vi considera. È una cosa che, insomma, non so se l'avete mai provata, ma è brutta, aiutateci. E a questa mail, tra l'altro, vi anticipo, dovrete mandare i vostri loghi e le vostre proposte di loghi per la vostra radio preferita, perché vi anticipo in anteprima che dal sabato prossimo, dal 17, parte un contest che dovrà coinvolgere tutti i più importanti artisti, disegnatori, pittori, artisti grafici del mondo tutto per trovare un logo per il Wombat, perché questa radio ancora non ha un logo e questa cosa è scandalosa. Allora, per aiutarci a pubblicizzare meglio la radio, per dare il vostro contributo e soprattutto dare un volto al vostro meraviglioso animaletto Wombat, dovrete spedire la vostra proposta di logo appunto la casella nostra, che è posta Wombat, chiocciolainsiberia.net, ve la ripeto. Ma non vi preoccupate, questo è solo un anticipo, in realtà vi racconteremo tutto meglio. E vi spiegheremo le modalità per partecipare a questo contest e in particolare lo faremo sabato prossimo, il 17 dicembre, a questa serata che verrà fatta dal Next Emerson, una serata di sound system autocostruiti, dub e reggae. Che andrà tutto, il cui ricavato andrà tutto benefit alla vostra radio preferita. Quindi non potete mancare, tanto alla fine siamo vicini a Natale, ma che ci avete da fare il 17 dicembre, sabato appunto. Venite a Next Emerson e aiutateci a autofinanziare questa radio autogestita, autofinanziata, auto tutto. E quindi insomma dovete venire. Per allettarvi un po' di più, se questo non bastasse, vi posso dire che suonano il Romola Sound System, il Jazz Station Sound System anch'esso, Rama Bass e i Miruz Sound, che per chi non lo conosce fanno tanta bella musica con impianti autocostruiti e quindi insomma dovete per forza venire, vi ho incastrato, prendete nota. Ma continuiamo sulle note dell'Apocalisse e arriviamo a un gruppone che in realtà è un gruppo un po' mainstream, o lo è stato per pochissimo tempo, devo dire, poi finito completamente nel dimenticatoio, per usare sempre questa parola che piace alla Brusca, perché parlo dei Disciplinata, un gruppo italiano del giro dei dischi del Mulo, insomma, di quel giro là, CSI, CCCP, ma secondo me molto meglio di tutti loro. E quando Repischella, vi condivido con voi questo ricordo, occupavo il mio primo squat, c'era questo mio amico che viveva con noi che mi ha insegnato a non sottovalutare Disciplinata, non va fatto. Lui diceva, un po' strizzando l'occhio, che erano ambigui, e in effetti sì, i Disciplinata nel panorama dei dischi del Mulo e della musica italiana di quegli anni, insomma, degli anni 90, spiccavano di brutto, almeno secondo il mio modesto avviso. Li avevo in una compilation dove ci avevo messo, per esempio, l'Inno Individualista, i Panico, gli Stige, altre amenità. Però, rimanendo sempre in quell'ambito di non autoproduzione, insomma, qualcosa che io purtroppo metto un gradino sotto, perché per me le autoproduzioni stanno sempre sopra, però in ogni caso vale la pena di essere ascoltato. E vi faccio sentire questo pezzo che si intitola Un mondo nuovo. Questi abbiamo sentito Aurora, erano i Mar Nero con Come se non ci fosse un domani, come infatti non c'è, tra parentesi, dall'album Il Sopravvissuto. E giusto, visto che hanno fatto un album completamente marinaresco, in stile marinaresco appunto, siamo nel quadrante primo. Un album del 2013, poi ne hanno fatto un altro che vi invito ad ascoltare, secondo me sono molto belli i Mar Nero. Continuiamo nel nostro giro nell'Apocalisse, nelle cose definitive da ultimo giorno, ma siamo quasi alla fine in realtà, perché abbiamo soltanto due pezzi che vi faccio sentire. Per primi dei due pezzi vi faccio ascoltare Massimo Volume, un pezzo che si intitola In un mondo dopo il mondo, appunto. Il disco è Cattive Abitudini del 2010, quindi non i primi Massimo Volume, ma è un po', siamo già nel ritorno di questo gruppo. Il Massimo Volume, per chi non li conosce, sono un gruppo appunto nato a Bologna sul finire degli anni 80, scioltosi nel 2002 e riunitosi poi nel 2008. Da qui poi il disco In un mondo dopo il mondo, cioè Cattive Abitudini, scusate, del 2010 appunto. Il gruppo si riforma in seguito, pare, alla richiesta del Museo del Cinema di Torino, in collaborazione con Traffic Festival di là, sempre nel giro torinese, di sonorizzare il film La caduta della casa Usher di John Epstein, che insomma deve essere stata una bella cosa. Purtroppo io me la son persa, ma probabilmente per chi c'era è stato un bel momento, ecco. Quindi sentitevi in Massimo Volume In un mondo dopo il mondo. Alzerò lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del letto. Fantasticò di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri, in un mondo dopo il mondo. In un mondo dopo il mondo. In un mondo dopo il mondo. In un mondo dopo il mondo. In un mondo dopo il mondo. In un mondo dopo il mondo. In un mondo dopo il mondo. She, the boss, bedroom. The boss, you know. Questi erano i Massimo Volume del 2010, In un mondo dopo il mondo. E non mi rimane che lasciarvi con l'ultimo pezzo. E il pezzo è un pezzo degli Affranti che si chiama Macerie, dal disco, il primo disco, diciamo, ce n'era un altro, ma era un demo, però vabbè, del 2001, Ciò che rimane. E gli Affranti li ascolterete spesso da me, ve lo dico già platealmente, perché sono un gruppo di meravigliosi savonesi che sono da un bel po' di anni, e i loro testi partono sempre dall'esplorazione dell'individuo e dalla disarmante esposizione di tutti i nervi e delle emozioni. Non c'è neanche un grammo di autoassoluzione nelle loro parole, e questa cosa è veramente rara. E a forza di camminare tra le macerie ci si scopre parte di esse, come scopriamo in questo pezzo. Ed è con questo paradossale tipo di strano coraggio che vi lascio alle vostre apocalissi e alla vostra notte, senza però dimenticare che prima di andare a dormire dovete ascoltare la trasmissione dopo di me, che è 8 Hertz, che questa sera vi farà ascoltare un live degli Ovo, registrato da pochissimo, perché hanno registrato all'Emerson l'ultimo concerto che hanno fatto qua sabato scorso. Quindi per i pochi sfortunati che non hanno potuto esserci, ve l'ascolterete stasera poco dopo di me, tra una mezz'oretta circa l'abbiamo in programmazione. Quindi prima di andare a dormire ascoltatevi 8 Hertz, ma prima di 8 Hertz ascoltatevi gli Affranti con Macerie, e con noi ci risentiamo mercoledì prossimo con Slick Chick, sempre alle 9. Ciao ciao!